Abbiamo già presentato ampiamente Elisabeth von Arnim, talentuosa cugina di Catherine Mansfield. Di lei abbiamo letto Un incantevole aprile e La moglie del pastore, ma siamo sicure che il suo lavoro migliore resti proprio il suo romanzo di esordio, quello da cui Marianette Beauchamp, questo il suo nome anagrafico, conservò il nome d'arte per tutta la sua carriera di scrittrice. La prima versione del romanzo uscì nel 1898 come diario anonimo, in cui la protagonista si chiama appunto Elizabeth. In seguito uscirono altri suoi romanzi, in cui si firmava dall'autrice del giardino di Elizabeth. Per finire, ad Elizabeth aggiunse il cognome von Arnim del marito aristocratico prussiano, ed ecco battezzata una delle autrici a nostro avviso più deliziose dell'Ottocento. Qualcuno ha scritto che da Elisabeth von Arnim si diviene dipendenti quando si comincia a leggerla, ed è così. In ogni romanzo, la sua capacità di descrivere e accarezzare l'anima con parole e temi lucidi e ironici, senza mai scadere nella violenza o nel dramma, è davvero una dolce brezza che calma l'anima. Il giardino di Elisabeth è scritto come un diario, tenuto in prima persona da una gentildonna inglese sposata con un conte tedesco. Materiale dunque autobiografico. La signora scappa dalla città e si rifugia nella tenuta di campagna della famiglia del marito, dove avrà un incontro magico col giardino. Sarà amore a prima vista. Elizabeth si propone di ripulire dalle erbacce e di trasformare il giardino nel suo personale piccolo Eden. Abbiamo già avuto un incontro con la magia taumaturgica dei giardini tenuti con amore in Il giardino segreto di Frances Hodgson Burnett, contemporanea di Elisabeth von Arnim e disponibile anche sul nostro canale YouTube. In questo giardino, la cui pace e bellezza l'attraggono ogni giorno di più, Elisabeth si rifugia, mangia solo insalata, beve molto tè e passa ore incantevoli, leggendo in silenzio e comunicando col mondo verde. Tanto che spesso si chiede nel suo diario perché le persone abbiano tanto bisogno di stare insieme e ciarlare, quando si sta così bene da sole in silenzio. Il giardino di Elisabeth avrà un seguito, un'estate da sola, nel quale Elisabeth viene sfidata dal freddo marito che lei definisce l'uomo della collera a stare un'intera estate senza compagnia femminile. Sfida che lei vince grazie al giardino, dimostrando appunto al marito che non tutte le donne sono oche come lui pensa. Divertentissime le schermaglie col giardiniere maschilista e tedesco, che nella sua visione ipergeometrica non comprende o non vuole comprendere le caotiche modifiche che la signora inglese gli chiede di apportare al giardino. Un pretesto narrativo per delineare con grazia due mentalità agli antipodi, delle quali Elizabeth von Arnim comincia a prendere coscienza, trasformando a suo modo i suoi romanzi in una forma di attivismo per i diritti delle donne, che si estrinseca anche nella descrizione di alcuni momenti, come il racconto della contadina polacca incinta, che si assenta solo dal lavoro per alcuni momenti, il tempo di partorire, poi ritorna subito nei campi. Il giardino di Elizabeth ebbe da subito un successo clamoroso con 21 ristampe. La scuola delle donne è lieta di presentare qui la versione integrale edita da Fazzi e tradotta da Sabina Terziani. Legge Giorgia. Da Devana, buon ascolto.